Bentornati a Rock Legends su Radio RCS L'Onda Veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, in questo caso a Giulia della Rock Norwich. Allora sono 98.6 per la bassa veronese e le zone dell'Alessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona del Lago di Garda e 94.7 per la Val d'Adige. Radio si può ascoltare poi anche attraverso streaming, dico sempre io. Certo. Sul sito www.radiorcs.it. Dal beat inglese degli anni 60 ci spostiamo di 20 anni e arriviamo negli Stati Uniti con il Paisley Underground, che recuperava le sonorità garage proprio dei 60s, rilette in chiave squisitamente revival. La canzone che ha aperto questa parte era delle Pandoras, ben tutta femminile, guidata dalla scomparsa Paula Pierce, e si chiamava He's Not Far, dal disco It's About Time del 1984. Suoni vintage in un'era in cui siamo abituati a collocare in un suono più sintetico e scarno, a dimostrazione che in realtà la musica aveva qualcosa già da mostrare anche nell'underground. Che ne pensi? Eh beh, penso che nell'underground c'è sempre qualcosa da mostrare, certo. In più tiro l'acqua al mio mulino, però bisogna. No, guarda, Pandora mi sono piaciuto tantissimo e andrò sicuramente a scoprirle maggiormente, a documentarle maggiormente, sempre grazie a te che mi fai scoprire queste cose. E no, cavolo, veramente avanti. Poi anche i video di YouTube meritano, quindi consiglio anche a tutti quelli che stanno ascoltando di andarsi a farsi un giro sul tubo per vedere qualcosa di nuovo, appunto. Once Upon a Time è il titolo del vostro disco di esordio. Quale significato avete voluto dare alla classica frase che di solito è accomunata ai libri delle fiabe? Allora, sì, continuiamo il discorso un po' della strega, esatto. No? Esatto. Quindi Once Upon a Time c'era una volta. Oltretutto noi ai nostri concerti abbiamo un intro che dice Once Upon a Time in a far far away land there was a witch, her name was Roypnol Witch. Quindi nel tempo fa c'era una volta la strega Roypnol. Quindi abbiamo appunto scelto questo tema per continuare la fiabesca musica roypnoliana. Il 1979 vede l'esordio dei B-52s, il bizzarro ensemble di Athens, Georgia, che troverà grande fama negli anni 80 con una musica più commerciale, dall'omonimo disco di quell'anno, il classico Rock Lobster. We were at a party. The dear Lord fell in the day. Someone reached in and grabbed it. What a rock lobster! Rock lobster! Rock lobster! Beach. Everybody had matching towels. Somebody went under a dock, and there they saw a rock. It wasn't a rock. Was a rock lobster? We'll be right back. band assolutamente fuori da ogni schema che ha saputo mantenere un ottimo seguito di culto. Forse al giorno d'oggi avremmo bisogno di formazioni che avessero un po' più di fantasia. Cosa ne dici? Assolutamente sì, perché come dicevamo anche fuori onda, live, la performance live da davvero tanto. Il fare spettacolo anche. Sì, cioè dare qualcosa in più, infatti certo, unire la solita musica. Esibizione. Esatto. E senza peccare di superbia, credo che, insomma, di conoscerne alcune, quindi non parlo di noi, ma assolutamente le Dogs Don't Lie Techno, un gruppo di Bologna che mi ricordano i B52 assolutamente come con la voce, oppure le Curi da Reggio, anche loro meritano tantissimo, quindi se vi capita di googlarle trovate qualcosa su internet. Vostre influenze musicali quali sono e quanto sono importanti nella scrittura delle canzoni? Importantissime, ognuno ha i propri gusti, siamo quattro persone, però ci uniamo, cioè abbiamo qualcosa che ci accomuna, quindi partiamo con siamo sempre partite con Le Ole, la nostra Kearney Love, però andiamo poi avanti con Yeah Yes, Juliet and the Licks, gruppi un po' più sconosciuti che vengono dal Canada, che sono le Magneta Lane e le Organ, poi le Girls in a Coma, però anche maschetti, quindi Arcade Fire, Radiohead, oppure anni 80, Smith, Cure, queste cosine qui, insomma. Chiudiamo allora la seconda parte con i Chesterfield Kings, nativi di Rochester, nello stato di New York. Sono tuttora in attività anche con concerti nel nostro paese, noti per le loro sonorità smaccatamente 60s tra Birds e Rolling Stones. Dal disco Stop del 1985 ci ascoltiamo la title track, poi sarà la volta di sentire sei canzoni tratte dal disco delle Rhypnol Witch dal titolo Once Upon a Time. Rimanete in ascolto.